Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Questa sera, cari ascoltatori, rievocheremo la figura e l'opera di uno dei giganti del pensiero economico del Novecento. Ne parleremo stasera e nella puntata di sabato prossimo, traendo spunto da una ricorrenza, i 70 anni dalla morte. Era il 21 aprile del 1946. A 63 anni non ancora compiuti, moriva a Tilden John Maynard Keynes, economista geniale e innovatore, autore di veri e propri monumenti della teoria economica, scritti tra il 1919 e il 1946. 15 volumi e oltre 400 tra articoli e altri saggi, tra cui citiamo tra tutti Le conseguenze economiche della pace, saggio fondamentale del 1919, in cui Keynes pone sotto accusa gli accordi di Parigi che seguirono la fine della Prima Guerra Mondiale, ma anche il saggio sulla riforma monetaria del 1923, il trattato sulla moneta del 1930 e il suo capolavoro Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta del 1936. Un piccolo viaggio nel pensiero economico di Keynes che faremo in compagnia del professor Luca Fantacci, docente di storia economica all'Università Bocconi di Milano, curatore del libro appena pubblicato dal Saggiatore, dal titolo John Maynard Keynes, Moneta internazionale, un piano per la libertà del commercio e il disarmo finanziario. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Partiamo proprio dall'introduzione del libro che ci porta diritti al cuore della questione. Keynes aveva provato a indicare la strada per un diverso progetto di riforma del sistema monetario internazionale rispetto a quello che poi venne deciso nella conferenza di Bretton Woods del 1944. John Maynard Keynes morì il giorno di Pasqua del 1946 per ferite di guerra. Non aveva combattuto in prima linea, ma aveva presidiato un altro fronte, forse ancora più decisivo per la guerra e per la pace, quello in cui era stato disegnato un nuovo ordine economico internazionale. Non aveva riportato lesioni, ma era stato minato nel corpo e nello spirito da 5 anni di intenso lavoro e di estenuanti negoziati, volti a formulare un piano e a sostenerlo, prima presso il governo inglese, poi nelle trattative bilaterali con gli Stati Uniti. Il colpo letale fu la delusione nel vedere il suo progetto stravolto e tradito. Il sistema approvato alla conferenza di Bretton Woods, come Keynes intuì, avrebbe solo perpetuato quegli squilibri che nei 30 anni precedenti avevano consegnato il mondo alla depressione economica e alla guerra. Il progetto di riforma del sistema monetario internazionale al quale Keynes dedicò gli ultimi 5 anni di vita costituisce il suo vero testamento spirituale. Il nome di Keynes è comunemente associato, tanto dai detrattori quanto dai sostenitori, a misure di espansione fiscale, di investimento pubblico, di spesa in deficit e, ancor più genericamente, di intervento statale, le cosiddette politiche keynesiane. Ma a ben vedere, Keynes non fu né il solo, né il primo, né il più fervente fautore di simili politiche da applicare come contromisure alle crisi economiche. Anzi, dal suo punto di vista, si trattava di meri palliativi per un sistema afflitto da depressioni cicliche. Una prima domanda, professor Fantacci. In cosa consisteva il progetto di Keynes e perché non ottenne il consenso che lo stesso economista inglese si attendeva? Il progetto di Keynes consisteva nella sua risposta radicale al problema radicale delle crisi da sovrapproduzione o da sottooccupazione. Quindi si trattava di una moneta internazionale che doveva essere distinta dalle monete nazionali, quindi senza concedere a nessun paese il privilegio, diciamo, di battere moneta per gli scambi, per gli investimenti o per le spese militari a livello internazionale, come avvenne poi di fatto con l'adozione del dollaro come moneta internazionale a beneficio degli Stati Uniti, con quell'esorbitante privilegio di cui si parlò poi a partire dagli anni 70. In secondo luogo si trattava di una moneta per gli scambi e non per la speculazione, in altri termini doveva essere creata in proporzione al volume del commercio internazionale, in modo che non fosse né troppa in modo da creare inflazione né troppo poca in modo da creare delle pressioni deflattive. Quindi Bretton Woods abbiamo ricordato. Ascoltiamo insieme quel che venne deciso in dettaglio in quella storica conferenza in cui si disegnarono, come lei ricordava poc'anzi, gli assetti del sistema economico e monetario internazionale internazionale, almeno fino al 1971. A Bretton Woods, omonima cittadina americana del New Hampshire, ebbe luogo la conferenza internazionale monetaria e finanziaria che dal 1 al 22 luglio 1944 stabilì le regole per le relazioni commerciali e finanziarie tra i principali paesi industrializzati del mondo. Con il secondo conflitto mondiale ancora in corso, si preparò la ricostruzione del capitalismo globale. Al Mount Washington Hotel di Bretton Woods affluirono 730 delegati provenienti dalle 44 nazioni alleate. Dopo 3 settimane di difficili negoziazioni, fu approvato e sottoscritto il testo degli accordi di Bretton Woods. Venne istituito il Fondo Monetario Internazionale e nacque la Banca Mondiale, con l'obiettivo di tutelare l'ordine monetario globale e favorire la ricostruzione dopo l'immane disastro della guerra. Venne introdotto l'obbligo per ogni paese di adottare una politica monetaria che puntasse a stabilizzare il tasso di cambio a un valore fisso rispetto al dollaro, eletto così a valuta principale. Il risultato ottenuto era di grandissima importanza, ma il piano originario elaborato da Keynes, che prevedeva la creazione di un'unione di compensazione internazionale con una propria moneta, il Bancor, era stato drasticamente rivisto. Lei, professor Fantacci, sostiene nell'introduzione al libro che la scelta adottata a Bretton Woods di fatto creò le premesse per quegli squilibri del sistema monetario e finanziario mondiale che nei 30 anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale avevano consegnato il mondo alla depressione economica. Insomma, è una valutazione abbastanza forte, direi. Ma sì, soprattutto perché normalmente il secondo dopoguerra viene considerato in forte contrasto rispetto al primo come un periodo di forte espansione, di crescita, di prosperità per i paesi occidentali, cosa che in effetti si verificò, ma a costo della creazione, dell'alimentazione di squilibri di cui si comincia a pagare le conseguenze nel 71 con la sospensione della convertibilità del dollaro e di cui si continua a pagare le conseguenze nei decenni successivi con la liberalizzazione dei movimenti di capitali a livello internazionale e la perpetuazione di squilibri di carattere finanziario che danno luogo a ripetute crisi. Quindi l'analisi è legata proprio a questo esito che in qualche modo Keynes prefigura e in vista del quale aveva immaginato un sistema che quegli squilibri finanziari sarebbe stato in grado di prevenirli. È uno dei grandi, dei grandissimi meriti della teoria economica di Keynes, quello di aver previsto di fatto molti anni prima quel che poi sarebbe accaduto, però fu una scelta quella che nel 1944 venne adottata soprattutto per motivazioni di carattere politico, probabilmente. Sì, certamente, anche qua di solito si dice che gli Stati Uniti nel 1944, in quanto paese creditore e in quanto principale depositario delle riserve auree, non potessero che favorire un sistema basato sull'utilizzo del dollaro e dell'oro come mezzi di pagamento internazionali. Ma in realtà quello che si difende con il sistema di Bretton Woods non sono tanto gli interessi commerciali degli Stati Uniti, ma soprattutto gli interessi finanziari e militari. Di fatto il sistema basato sul dollaro consente di sostenere la forza del sistema finanziario americano e soprattutto la sua politica di potenza nel quadro della contrapposizione bipolare. E in qualche modo si lega poi al piano Marshall, che poi fu il piano fondamentale per l'Europa, direi. Certamente, infatti gli Stati Uniti si rendono ben conto che avere una posizione di paese egemone senza avere un mercato per la vendita dei propri beni è un handicap, quindi il piano Marshall risponde al duplice intento di creare in Europa un mercato per la produzione americana e un baluardo contro l'espansione dell'impero sovietico. Ciò con cui gli Stati Uniti non fanno i conti è che questo tipo di politica non può che alimentare un deficit indefinito della bilancia dei pagamenti americani, che comincia non a caso negli anni 50 e continua ancora oggi, facendo degli Stati Uniti il principale paese debitore a livello internazionale. Non ritiene, professor Fantacci, che questo aspetto della teoria economica di Keynes debba essere in qualche modo rivisto e valorizzato, perché come lei stesso sostiene nel libro e anche nell'introduzione, in fondo la fortuna di Keynes si deve anche nella rielaborazione che ne è stata fatta in tempi recenti, adesso c'è una riscoperta di Keynes, ma soprattutto dal punto di vista di Keynes visto come il teorico delle politiche espansive in deficit, il cosiddetto deficit spending, in realtà è solo un aspetto questo della teoria keynesiana. Sì, e direi l'aspetto meno originale e meno significativo e soprattutto meno spendibile oggi, perché innanzitutto quando Keynes promuove il deficit spending siamo in un'epoca in cui ancora i bilanci degli stati hanno delle dimensioni molto limitate. Non so se oggi Keynes sarebbe stato keynesiano con la spesa pubblica che si mangia più del 50% del PIL, certo, in gran parte dei paesi. E in secondo luogo si trattava dal suo punto di vista soltanto di palliativi, cioè se la domanda aggregata è insufficiente bisogna che qualcuno intervenga e questo non può che essere lo Stato, ma la domanda aggregata è insufficiente perché la moneta viene continuamente sottratta al suo scopo, che è quello di circolare e di alimentare gli scambi e gli investimenti. Quindi il suo scopo principale è creare una riforma monetaria in modo tale che la moneta sia consegnata al suo compito di alimentare gli scambi. E poi comunque la tesi principale di Keynes era quella di rilanciare la politica degli investimenti pubblici, quindi non tanto un deficit spending fino a se stesso, ma orientato proprio alla crescita. Questo certamente, e questo resta valido come certo, riferimento anche per le politiche attuali, però direi si è forse posta fin troppa enfasi sul carattere pubblico degli investimenti. Quello che Keynes vuole rilanciare sono gli investimenti to core. Il motivo per cui gli investimenti privati non sono sufficienti è perché, come vediamo in questi giorni, gran parte delle imprese hanno interesse, soprattutto in momenti di incertezza, a investire in liquidità, accumulando scorte di denaro liquido in mani senza fare quello che dovrebbe essere il loro mestiere, appunto di investire in attività produttive. Bene, grazie professor Fantacci, le diamo appuntamento a sabato prossimo per proseguire insieme questo viaggio nel pensiero di uno dei più grandi economisti della storia, John Maynard Keynes. Grazie a Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia, a sabato prossimo.